Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant' Notar Nicola, parte seconda. La sera continuavo ad andare al Banfo o al Kral Gobetti, imbrancato con gli altri giovani della barriera. E ce n'erano tanti, l'atmosfera era sempre accesa, entusiasta. Ormai ero preso nel giro e mi piaceva, era un modo di sentire che non ero uno che doveva solo lavorare, star zitto e ubbidire, sempre a tanti, senza avere mai niente. Tutte le sere c'era qualcosa da fare, un comizio, i manifesti o i volantini da lanciare nel cinema con azioni semiclandestine, o le scritte sui muri, o una festa, una riunione, o quando capitava le botte, a qualche squadretta di missini o di giovani dell'azione cattolica che avevano osato violare la nostra Stalingrado. E poi c'erano le feste con ragazzi e amici, le serate chiassose della nostra gioventù, povera ma con un irrefrenabile desiderio di cantare e di ridere, di vivere con gioia. Era bello il primo maggio alla barriera. Se non eravamo in migliaia e migliaia, non si partiva da Piazza Crispi per il centro. Cartelli, bandiere rosse, fazzolettoni rossi, giovani, vecchi, compagni, partigiani. Era un punto d'onore essere sempre i primi, sempre in più, sempre migliori. Bisognava presentarsi di fronte al giudizio degli altri rioni come rappresentanti del quartiere più rosso, più combattivo. Lo spirito d'emulazione si esprimeva anche e soprattutto in queste cose, oltre che nel reclutamento, nella diffusione dell'unità, nella preparazione degli scioperi. In quelle occasioni, o quando veniva Togliatti a parlare in Piazza San Carlo, era bello essere insieme, sentirsi uniti, forti. Salivamo a grappoli sul tram e c'era sempre un compagno tranviere che ci risparmiava il biglietto. E poi cantare in faccia ai padroni, ai borghesi del centro, tutta la nostra rabbia e le nostre speranze. Non potevamo fare di più, ma era già qualcosa. A poco qualcosa maturava in noi. Lo spirito di lotta e di fratellanza, la coscienza di appartenere tutti alla stessa classe e quindi di avere gli stessi interessi nella lotta quotidiana. Sul lavoro, delle cui condizioni di sfruttamento cominciavo a rendermi conto. Nelle discussioni, nelle riunioni mi accorgevo che stavo cambiando. Oltre a imparare cose nuove, sentivo con tutto me stesso che quello era il posto giusto, tra gli operai, gli sfruttati come me. Sentivo che nulla di buono e di valido poteva venirci da quelli che sono al potere, dai padroni. Solo dal partito poteva venire qualcosa di buono, di nuovo. A quel tempo diffondevo La Stampa, Avanguardia, Vie Nuove, L'Unità, Rinascita, e avevo un mio piccolo gruppo che mi aiutava. Nel tempo libero c'era l'altro lavoro di sezione. Insomma, stavo percorrendo a piccoli passi quella strada che porta a una completa militanza. Fu proprio in quel periodo che conobbi Pietro Cavallero e Danilo Crepaldi. Nonostante tutto, non era scomparsa una leggera diffidenza nei confronti dei dirigenti del partito, soprattutto verso quei dirigenti provenienti dalla borghesia. Una diffidenza in noi involontaria, non del tutto immotivata, verso quelli che non venivano dalla classe operaia, che parlavano troppo difficile. Forse questa diffidenza verso gli individui non era del tutto giustificata. Anche tra gli intellettuali ci sono stati e ci sono degli ottimi rivoluzionari. così come tra gli operai ci sono stati e ci saranno opportunisti ed arrivisti. Forse tutto veniva da una sensazione, allora piuttosto oscura, che c'era qualcosa che cominciava a non andare bene nel partito, che si rivelava in quel continuo distacco tra un linguaggio rivoluzionario e una pratica che col passare del tempo si faceva sempre più riformista. Questo lo avrei capito bene qualche anno dopo. Era inoltre lo stesso ambiente operaista della Barriera, con la sua tipica cultura proletaria, a farci sentire a disagio con una punta di sottile antagonismo in presenza di chi involontariamente ci ricordava i modi e il linguaggio della classe nemica. Eppure ce n'erano di bravi compagni tra gli studenti e gli intellettuali, come li chiamavamo noi. C'erano quelli che negli anni di crisi se ne sarebbero andati, cercando per vie traverse una sistemazione più personale che politica. Ma tra i quadri dirigenti c'erano anche tanti compagni come noi, il Cianin, Rossi, Basaglia, San Lorenzo, Mario Zucca, c'era Filiberto Rossi, anche lui della Barriera, abitava in Corso Emilia, proprio sopra la caserma dei Carabinieri, e a ogni manifestazione cercavano di beccarlo e ogni scritta sui muri del rione pretendevano che fosse opera sua. Poi c'erano i compagni della sezione, i dirigenti locali, Giglio, Pittatore, Capra, il compagno anziano che il 25 aprile del 45 dimostrò tutta l'umanità e la bontà che sono in ogni comunista autentico, che non si batte per odio e per vendetta, ma per giustizia. Tutti in Barriera conoscevano Capra. Ricordavano di quello che aveva fatto nel 1945 per impedire che la collera dei poveri travolgesse innocenti altri poveri, anche se erano stati nella Repubblica Sociale. I soliti poveri cristi che si ficcano dove possono, perché non sanno come fare a sopravvivere e finiscono magari dalla parte sbagliata, senza saperlo, senza essere proprio delle carogne e senza volerlo. Si mettono al servizio delle carogne vere, dei padroni. Capra era uno di quelli che sapeva distinguere al momento giusto. Era soprattutto dai compagni di base, come lui, che noi giovani si riceveva un'educazione morale e politica, anche una formazione umana. Questo era un compito del partito. Questo era il grande merito di quei compagni più anziani, operai, vecchi, militanti partigiani, che ci insegnavano così a diventare uomini, uomini veri. Tutto questo lavoro di formazione era fatto in funzione di quelle speranze rivoluzionarie che tutta la base continuava a ritenere realizzabili a breve scadenza. E per fare la rivoluzione era necessario che le nuove leve maturassero in fretta. E la sezione comunista allora in genere nei paesi, nei quartieri, nelle fabbriche, era l'unico posto in cui l'operaio, il contadino, il disoccupato, i giovani potessero ricevere un'educazione sociale. L'unico luogo in cui potessero imparare a lavorare e a lottare con i propri compagni, contro i padroni, per la propria classe e per gli altri più poveri di loro. Di lì partiva quell'azione che si sarebbe realizzata nelle fabbriche e nelle piazze. Era l'unico luogo dove si imparava che tra gli uomini non c'è solo la legge della giungla, la corsa al profitto, l'individualismo, ma c'è pure lo spirito di sacrificio tra i compagni per la propria classe. Mi ricordo bene di quelle lunghe discussioni che si facevano talvolta la sera coi compagni. Le parole sentite allora, i discorsi, le prime letture si fondevano con la pratica quotidiana del piccolo lavoro di attivista e con lo spirito rivoluzionario, quello spirito che mi dava coraggio ed entusiasmo. Le tre letture d'obbligo per i nuovi reclutati alla FIGC erano il tallone di ferro di London, scritto sotto la forca di Fuchsik, e come fu temperato l'acciaio di Ostrowski. E l'incazzatura era grande quando il giovane che li aveva ricevuti non si affrettava a leggerli, oppure non li leggeva affatto. Ci pareva impossibile che un giovane della FIGC della Barriera di Milano potesse avere una seria base politica senza aver letto questi libri. Per chi superava la prova c'erano opere più impegnative e dopo ancora acquistava il diritto a partecipare ai gruppi di studio che immancabilmente iniziavano con la noiosissima storia del Partito Comunista Bolscevico dell'URSS, del compagno Stalin, nella quale si parlava solo del compagno Stalin, Questi gruppi di studio non superavano mai la terza lezione, si fermavano immancabilmente ai primi scogli della dialettica. A poco cominciavo a trasformarmi, mi sentivo migliore, più risoluto. Anche oggi tutto questo maturato e rivissuto mi aiuta a vivere, a lottare così come posso. Oggi guardo indietro a quei tempi e misuro il distacco, strada percorsa, e sento che senza quell'esperienza forse non sarei in galera, ma sento pure che se non fossi diventato comunista l'intera mia vita non avrebbe avuto senso. E per me essere comunisti è l'unico modo di essere uomini. Il futuro vada come vada, ma le cose giuste della mia vita non posso rifiutarle, respingerle, neppure per rendere più tollerabile la mia situazione. Vada come vada, sono stato e sono un comunista. Dicano quel che gli pare, i fottuti borghesi, me ne sono sempre sbattuto di loro, in modo giusto o sbagliato, gli ho sempre sputato in faccia. E ora, più che mai. A maggior ragione, ora li conosco meglio. Ora che ho conosciuto le loro galere, ho visto ciò che fanno ogni giorno ai poveri cristi. Non rimpiango di essermi ribellato contro i padroni, rimpiango di averlo fatto fuori tempo, in modo sbagliato. Se fossi nato 10 anni prima, forse sarei stato un gappista. Avrei vissuto la resistenza, probabilmente, e l'avrei vissuta in un certo modo. Anche il tempo, la situazione in cui si vive contano nel determinare un uomo e la sua sorte. Legati a un movimento partigiano in un momento in cui erano validi il sabotaggio e il terrorismo, noi avremmo potuto compiere azioni utilissime, decisive per la lotta in una città come Torino o Milano. Fare il partigiano in montagna non sarebbe stato affar nostro, ma in una città avremmo dato del filo da torcere ai tedeschi e ai fascisti. Se i partigiani erano in certo qual modo organizzazioni regolari con una divisa, un territorio, proprio un confine, sia pure labilissimo, che li divideva dal nemico, un retroterra, sia pure minimo, in cui il nemico per inoltrarsi doveva impiegare forze massicce e poteva farlo solo in certe occasioni, per i gappisti si trattava di sparare proprio in mezzo al nemico, in casa sua. Erano i partigiani dei partigiani, un lavoro durissimo, la tensione era continua, in genere gli uomini duravano solo pochi mesi. Ogni soldato, e anche il partigiano, quando non è impegnato nell'azione, ha la possibilità di scaricarsi, di vivere qualche giorno o anche solo qualche ora fuori pericolo, in mezzo ai suoi. Puoi parlare, cantare, dormire in un'atmosfera amica. Per il gappista non c'è un momento solo in cui possa abbandonarsi. Ogni faccia che vede può essere il nemico, ogni parola nasconde un'insidia. Chiunque lo avvicina può essere un delatore. Ogni suono di campanello alla porta può essere il nemico che l'ha individuato e non c'è salvezza in questo caso. Non ci sono azioni di difesa, non c'è strada di fuga, non c'è retrovia, non ci sono i compagni che possono intervenire. Quando si viene identificati è la fine, senza mediazioni, senza la possibilità estrema del combattimento o dello sganciamento. Se fossi nato prima, quella sarebbe stato il lavoro giusto per me. Ognuno è fatto in un certo modo e per un certo tipo di azione. Il nostro sarebbe stato un gruppo cappista come quello di Pesce, di Dante, di Nanni e di tanti altri. Pesce, di Nanni, nomi da leggenda a Torino nella barriera. Piero mi parlava sempre di Dante, medaglia d'oro della Resistenza, veniva sempre in sezione. Piero, anzi, era stato fra i primi ad avermi notato appena arrivato a Torino. Parlavo spesso con lui, era più anziano e noi gli eravamo sempre attorno. Ci spiegava un mucchio di cose nuove, si discuteva di tutto, ma molto spesso il discorso cadeva sulla Resistenza, sulla lotta partigiana. Anche questo era un modo giusto per assicurare la continuità dello spirito rivoluzionario e combattivo tra noi giovani, per prepararci alle lotte future, esaltando le figure eroiche dei nostri compagni caduti. Un giorno Piero ci portò a vedere la centrale elettrica che di Nanni avrebbe dovuto far saltare, i luoghi del combattimento. E poi ogni anno le fiaccolate commemorative fino in Borgo San Paolo, in via San Bernardino, dove di Nanni aveva combattuto per ore e ore contro i tedeschi e fascisti, solo, rifiutando la resa, preferendo morire, solo. Piero mi raccontava di lui e di quando, dopo la battaglia di via San Bernardino, avevano stampato degli opuscoli e li avevano dati agli studenti e agli operai, ed erano arrivati i briganti neri. Fuori tempo, per fortuna, non avevano trovato più il materiale, ma sempre in tempo per dare a lui e agli altri un sacco di botte, così un po' per intuizione, un po' per sfogare la loro rabbia di agonizzanti. Poi avevo conosciuto il leggendario Barba e Ambrino, il comandante negro della Grandi Motori, un altro anziano comunista. Sereni, calmi, sicuri, con una fede incrollabile nella vittoria del proletariato. Fede che sapevano comunicare agli altri con le parole e con la forza esemplare della loro vita quotidiana. Ambrino era rimasto un puro, era stato il comandante partigiano di Danilo e una sera venne al Banfo per fare una conferenza a noi giovani. In genere le riunioni venivano tenute da compagni della federazione, ma ogni tanto c'erano serate dedicate alla discussione dei problemi regionali o delle fabbriche locali, o alla storia partigiana, e allora uno qualsiasi di quei compagni che erano sempre con noi si trasformava in oratore. Si faceva una relazione e poi ognuno di noi poteva fare il suo intervento. Quella sera Ambrino tornò per un poco ad essere il comandante negro. Per me fu come rivivere la lezione tenuta in aula da quel mio maestro qualche anno prima. La stessa commozione, lo stesso sentimento di partecipazione, anche se solamente indiretta e vissuta nel racconto di un altro. Lo stesso sentimento di trovarmi in presenza di qualcosa di grande, di pulito. Ma stavolta c'era un fatto nuovo, più avvincente. Chi parlava era un protagonista. C'era anche Danilo quella sera e forse fu la prima volta che parlai con lui. Mi rammento che era vicino al suo vecchio comandante, alla fine della riunione, e stavamo parlando di alcuni compagni caduti. Tutti e due avevamo gli occhi lucidi. È strano che mi ricordi solo questo particolare su Danilo, ricordando quella sera. Anche ora, dopo aver fatto tanta strada insieme, dopo che lui se n'è andato per sempre, quando penso a lui mi piace rammentare il Danilo di quella sera. Lo rividi parecchie altre volte, Danilo, soprattutto quando andai a lavorare per un po' di tempo nella bottega del vecchio cavallero. Ero rimasto di nuovo disoccupato. Andò così. Un giorno il compagno datore di lavoro, quello della trattenuta sulla paga per via del quartino di Barbera, mi mandò a portare un carico di bulloni a un suo cliente. La distanza era notevole. Il mezzo di trasporto era una vecchia e pesantissima bicicletta senza freni, con un enorme portapacchi anteriore. Enorme almeno per me, in rapporto alle mie dimensioni. Vi caricarono un cassone di materiale finito. Mi installarono sulla bicicletta. Mentre ero fermo, il padrone e un operaio mi tennero in equilibrio. Non raggiungevo neppure il sellino. E poi, via, mi diedero una spinta e riuscii faticosamente a salpare. Se si fosse trattato di andare sempre avanti, senza fermarmi, in pianura, avrei potuto raggiungere la meta senza incidenti. Avevo già architettato tutto un percorso che evitasse i semafori e che attraverso continue deviazioni di rotta mi avrebbe permesso di raggiungere a destinazione, Porta Palazzo, senza intoppi. Infatti, come avrei potuto da solo rimettermi in moto? Purtroppo il punto di partenza era verso San Mauro, oltre Po, e c'era una sola strada prima di entrare a Torino. Quel pezzo era un percorso obbligato e per mia disgrazia c'era una salita assolutamente inevitabile. L'affrontai con coraggio, mettendoci tutte le mie forze, e ce l'avevo quasi fatta. Mancavano pochi metri al culmine, quando improvvisamente la resistenza delle cose superò le mie energie e la mia forza di volontà. Rimasi inchiodato per un attimo, in surplus, Questo bastò perché si rovesciasse tutto. Io la bicicletta, la cassetta e i bulloni, i quali naturalmente rotolarono dappertutto, uscendo dalla fasciatura di carta oleata in cui erano stati avvolti con somma cura, perché non prendessero un solo granello di polvere a 12 a 12. Si riempirono quindi di sabbia e di polvere, bloccando il traffico e le rotaie del tram. Accorsero alcuni vecchietti della Piola, più vicina, e dei vigili, povero Gagnu, povero Tarunette, e mi aiutarono a ritrovare i bolloni sparsi e rimetterli nella cassa e a ripartire. Proseguii senza altri incidenti, piombai l'infilata nel portone in cui si trovava la ditta alla quale dovevo consegnare il materiale. Mi fermarono due robusti operai prima che sbattessi contro il muro al fondo del cortile. Ripartii di volata. Appena arrivato in fabbrica, vidi dalla grinta del padrone che avevano già telefonato. Finì così il mio apprendistato come tornitore. Era un periodo in cui cominciava a essere difficile trovare un lavoro. C'erano sempre parecchi giovani momentaneamente disoccupati che gironzolavano per la sezione, finché, in un modo o nell'altro, i compagni riuscivano a trovarglielo. Anch'io rimasi alcuni giorni a spasso, finché una sera in sezione rividi Piero, al quale raccontai i miei guai. Lui veniva lo stesso in barriera, anche solo di scappata, quasi ogni giorno, pur avendo altri incarichi in federazione. Conosceva tutti e tutti lo conoscevano, in barriera non solo in sezione. Era sempre vissuto nel rione, sin da piccolo, nelle case operaie di via De Esana. 400 famiglie, maggioranza schiacciante al PC e al PSI, fronte popolare nelle elezioni. Un sacco di giovani che erano stati partigiani. I più giovani erano quasi tutti della FIGC, tutti fanatici del loro capo, Piero. Avevano addirittura un circolo ricreativo e sportivo all'interno del quartiere, come lo chiamavano. Vita dura per il prete della parrocchia Speranza Nostra e per i suoi giovani della GIAC, con l'oratorio proprio vicino alle case popolari. Era sempre vissuto lì, Piero, in quelle case di povera gente, di operai, di compagni, quasi tutti piemontesi, pochi meridionali, parecchi toscani immigrati al tempo in cui la Fiat aveva bisogno di fonditori e li prese a Piombino, mentre era in crisi l'industria del ferro dell'Elba. Il vecchio cavallero era il presidente del circolo e del comitato di quartiere. Era una figura tipica di comunista, amato e stimato anche dagli avversari. Anziano antifascista, era sempre riuscito a essere una bandiera per tutti. Anche Piero era venuto su allo stesso modo e lo stampo proletario del suo ambiente, della barriera, delle case popolari, quello stampo che serviva a formarlo come rivoluzionario, come comunista, come dirigente. E proprio sotto questo aspetto lo conobbi allora e dopo per tutti gli anni che seguirono fin quasi alla fine. E ancora oggi mi è difficile capire e spiegarmi il perché di certe sue azioni negli ultimi anni. Certo, per me allora Piero rappresentò un esempio, una guida, e lo fu veramente per anni, per tanti di noi. La prima volta che parlai con lui ero a Torino, da poco. Fu al circolo ricreativo annesso alla sezione. Erano le prime volte che lo frequentavo. Una sera, rammento, mi trovavo lì con un gruppo di altri ragazzi. A un tavolo c'era Piero. Mi chiamò e mi chiese se sapessi cos'era il comunismo. Rimasi confuso, così a bruciapelo, davanti a tante persone. Balbettai qualcosa e lui allora mi disse alcune frasi che mi rimasero impresse nella mente. Mi disse che il comunismo era l'associazione di tutti gli uomini migliori, i più onesti, i più coraggiosi. Mi disse che il comunismo era come un mondo nuovo, realizzabile su questa terra. Non era importante se ognuno di noi singolarmente si sentiva piccolo o debole o ignorante, o se i padroni parevano tanto ricchi e potenti. Noi operai, noi poveri, uno per uno non contavamo niente, saremmo sempre stati schiacciati, ma tutti insieme, guidati dall'ideale del comunismo, eravamo una forza immensa, invincibile. Se fossimo stati capaci di lottare insieme, avremmo potuto finalmente cambiare le cose, costruire una società fatta di uguali, diventare tutti più buoni, più felici. E mi parlò anche dei sovietici, del grande compagno Stalin, di Togliatti. Questi erano i capi e gli eroi del popolo. Sotto la loro guida il Partito Comunista, fatto di tutti noi, avrebbe vinto e con esso tutta la classe operaia. I padroni sarebbero stati spazzati via, tutta l'Italia sarebbe diventata come la barriera di Milano, dove i fascisti e i democristiani avevano la coda tra le gambe, la polizia stessa ci veniva a malincuore e i padroni la prendevano bassa bassa e non si permettevano mica di alzare tanto la cresta. In quel tempo Cavallero era in federazione e faceva il funzionario, il che significava dedicare tutta la giornata al partito per uno stipendio, quanto mai misero e insicuro. Allora funzionario sapeva ancora di rivoluzionario di professione, non di impiegato o di burocrate. Appunto perché era un rivoluzionario, Piero. Non stava mai in ufficio, in federazione. Era sempre in giro col treno o in auto o il più delle volte in bicicletta per i paesi della provincia. Oppure a tenere riunioni in altre sezioni. Non mancava mai a uno sciopero o a una manifestazione. Ma appena aveva un po' di tempo libero, tornava in mezzo a noi. Quando mi trovai a essere disoccupato dopo la storia dei bulloni, lo dissi a lui e il giorno dopo fui assunto nella boita del vecchio Cavallero. Non doveva essere un'occupazione definitiva, avrei dovuto rimanerci solamente per un periodo di tempo, tanto per dare una mano, fare un po' di commissioni, finché mi fossi trovato un nuovo lavoro. Si trattava insomma di superare la congiuntura. Era un po' il rifugio, la bottega di Cavallero, come del resto lo erano le botteghe di alcuni altri compagni, quando uno di noi era a terra e non sapeva dove sbattere la testa. In quel tempo anche il partito non poteva certo funzionare da ente assistenziale, e tanto per non passare tutta la giornata a bicollonare per le strade e avere anche qualche lira da portare a casa il sabato. Era una strana ditta quella di Natale, il padre di Piero, sempre in lotta con clienti che non pagavano tasse, fornitori, sempre compagni che andavano e venivano, pareva una succursale della sezione. Piero ci capitava ogni tanto e lì conobbi anche parecchi altri compagni che non appartenevano alla nona sezione. Infatti la barriera di Milano a quell'epoca contava sugli 80.000 abitanti ed era suddivisa in 5 sezioni. E i Cavallero territorialmente appartenevano alla 32esima sezione Andrei Zdanov. E c'erano altri giovani come me che spesso venivano a trovare Piero oppure a vedere se c'era qualche lavoretto per arrotondare un po' la paga. Fu così che vidi per la prima volta Adriano Rovoletto. Aveva lavorato con Natale, fin da ragazzino, e sotto la guida del vecchio era diventato un abilissimo ebanista. Spiccava tra gli altri per il suo carattere gioviale e scherzoso, sempre pronto alla battuta e alla risata, quando capitava in bottega. Il tempo passava veloce, tra gli scherzi che la sua fertile fantasia combinava ai danni degli altri. Sia i giovani che i vecchi avevano per lui una gran simpatia e gli perdonavano tutto. L'avrei rivisto altre volte in quel periodo di tempo, di solito neppure lui mancava alle manifestazioni importanti. Abitava alla Snia, in quel quartiere di case operaie che si trovano all'imbocco dell'autostrada per Milano, oltre l'Ostura, il fiume in cui si andava a fare il bagno d'estate, la piscina dei poveri. Erano tutti veneti, o quasi, anche Rovoletto erano venuti tanti anni prima dal Padovano, a cercare una vita più umana, anche a costo di sputare sangue alla viscosa o agli alti forni, come il padre di Adriano. Le case operaie della Snia si trovavano all'estremo limite della barriera, erano quasi un paese a sé stante. Allora non c'erano ancora molte fabbriche nuove. C'erano prati, campagne, una vita più libera e aperta, almeno per i ragazzi di quella via Cuneo. I giovani della SNIA erano un bel gruppo, in maggioranza legati alla sezione locale, la 27esima, e al CRAL Luigi Mosso. Erano un gruppo compatto, anche quando venivano in centro. Infatti, Piazza Crispi per loro era già il centro. Venivano giù in massa col filobus o con le biciclette, quando c'era una manifestazione rionale o per unirsi a noi in occasione di sfilate e comizi. Erano uno spettacolo. A quel tempo avevano una specie di divisa della FIGC, tutta bianca, col fazzoletto rosso. Quelli della SNIA ce l'avevano tutti ed erano sempre i primi nelle sfilate, con Adriano in testa, il più bel ragazzo della SNIA, il primo a cantare con la sua voce potente, il primo se c'era da gettarsi contro i cordoni della polizia o all'arrembaggio di qualche bella ragazza. Libri ribelli. Libri ribelli.